fatto scendere Dembele che io devo andare via. Va bene, sta arrivando, l'ho già detto. Che stai facendo l'aereo solo? Ma sono in compagnia che fai? Uffo! Chiamari! Morti scienze! Attento! Gufo! Tasso di gufo! Beh, oggi non ha gente già nessuno, è acceso più di mezz'ora, boh, come mai? Beh, frittella! Ciao! Ah, le frittelle stai mangiando! Oh, tu sei frittella! Ah, chi tu non è? Vittorio, quello che ti ho fatto vedere! Oh, paria è tu! Sì, si chiama Vittorio, non viene il nome Vittorio! Oh, so, tu mandavi lo sa combinato? La s'assomiglia, non lo so, non si senti tu! Ah, c'è no, che Vittorio! Era no che era ansura! Senti in dia, io stavo facendo qualcosa! Sentivo il bip! Che è avanti! Tu l'hai detto grazie a Boh! Mi ha mandato una foto! Dove c'è ci ha guardato il mio profilo! Il mio profilo! E ha detto che li piace anche se ha voto! Sono composato con la Duca quando aveva fatto il compleanno, mi pare, l'anno, boh. Ah, lo compleanno o l'anni? L'anni, mi va. Ah, ecco qui. Cazzo per tutto il tempo, mi sento più belli. Sei uno schifo, mi sono uscito in veranda, va, a punire. A punire la plastica, lo sacchetto. E vedi la vetrata, è fusa, di borso, di bene, va, fanculo, cazzo. Ah, pensavo che riesci da innaffiare. Ehi, ya no, azzurra è una pelle, una bomba. Tu sei visto che sono fitto, che devo cazzo da fare in aria, con l'ombrello pure non appendi, lo giardino. No, ne ho visto anche un altro lavandosi la macchina sotto l'acqua, in pantaloncini. Sì, sì, ne inventano, eh? Mica ne inventano, beh. Ma c'è gente esaurita. Secondo me, ma se pare mi può lavare la macchina e non fare nell'aria. Lo so che ti chiamo. Vittorio, Vittorio! Comunque buonasera ragazzi. Chi è? Chi è? Vittorio. Beh, Vittorio, ma tu sei quello che c'era su internet. Ma quello Vittorio del Palma, sì. No, quello che... ti hanno picchiato quel cane e poi l'hanno impiccato, tu sì. E quale grazia? Non ho capito. Poi ti mando la foto. Ti mando la foto dopo. Su Messenger. E dopo mandami la foto. Mi sembri tu. Grazie, ma non ci sei più su Istanbul? Sì, ce l'ho sempre. Perché? Non ti ho mai visto. Non la penso quasi mai, lui. Tutti visti, tutti scassati, non so. Ma su Facebook però vai. Su Facebook lui sì. Lì già me lo guardo di più, mi piace di più, da. Su Instagram mi vedo troppo i signori, cosa cazzo. Tutti illusi. Mi ha solo aperto. Va. Sì, ma che sicuro. Tutti vivi. E tutta gente illusa. Va. Ma tanto su Istanbul, su Facebook, ma tutta la matessi foto, se pensi. Va. Perché non ha preso. Tutti in fuggio i nomi, sono perso tutto in terra con una sua mano sporca. Sì, vabbè. E no che c'è un mobile qua, da terra. Ma come ti ho poi mi sono calato da questa favola invetrata. Capito mia? Sì, aspetta un attimo che c'ho, appi. Aspetta. Aspetta un attimo, che c'ho un... Vabbè, come lo fa aprire, ma... Un coso, come si sposta. Grazie, inviami quella foto che mi stavi dicendo. Vittorio! Ehi, grazie! Ah, su Messenger non ci sei tu, solo su WhatsApp sì. No, no, su Messenger ci sono, ma su sì, WhatsApp lo stesso ce l'ho, però non c'ho il numero tuo. Aspetta a vedere se ti trovo su Messenger. Fino che non ti vedo. Allora, vediamo. Ci sei su Istanbul, Vittu? Cos'è lui? Ci sei su Istanbul. Oh, non mi senta mai. Boh, avano tagato. Adesso mi dico, Vittorio, Vittorio, e capire il fatto. Non ci sei neanche su WhatsApp. Vittorio, mica te l'ho mandato. Adesso mi è arrivato, mi aspetta. Guarda, non sei tu quello. Aspetta che sto guardando. Guarda, mi sembri tu. Sembro io, ma non sono io, Graziano. Ah, non sei tu, perché sennò ti stavo già tirando il collo. No, ma cosa? Perché? Cosa è successo? Leggi cosa hanno fatto quegli imbecilli. Hanno picchiato un cane e poi l'hanno impiccato. Quei ragazzi che ci sono in quella foto. No, e cosa ti credi che ero io? Rassomiglia un sacco a te, lo vedi, l'hai visto? Il primo a destra. No, vabbè, questo sembro io, ma non sono io, grazie, sta tranquillo, io non li voglio dire, i cani li voglio bene, pensa che ce l'ho anche io il cane, ma non è facile di queste cose, io li voglio bene i cani. Un socio è, allora, hai visto che è uguale a te. E pare che Luca già sta ascoltando quello che sto dicendo io, vero Lu? Luca, ti è arrivata quella bambina? Luca! Sì, grazie. È arrivata la bambina, sì. Già li ho visti, grazie. L'ho vista quella foto lì. Aspetta, visto che sono... Luca, l'hai vista? Ehi, andiamo a vedere cos'è sotto, però c'è Marina qua. Mi è vestita meno, è nuda. Mi buttava fuori da casa. Siamo già a casa tua, cazzo. Adesso la chiamo, lui che deve passare qua prima di andare a Hong Kong. Qui. Piccolina. Sì. Proprio confezionata bene. Pacco regalo. Aspetta, grazie, dai, mi alzo un attimino. E poi... Devo posso vabbè verso le 9:10 così. Devo andare da Luca a prendere un monitor, perché lo devo sistemare. E chi Luca? Flippero? Luca Furamironi. E intanto Valumacco ci ha fatto il pannello solare, non te l'ha fatto vedere. Il pannello solare ci ha fatto, hai capito? Sì, me l'ha fatto vedere ieri, mi ha mandato tutte le foto e le registrazioni. E anche su Istanbul l'ha messo. Hai visto, fai da te. Adesso lo doveva incanalarlo per mandare l'aria calda nelle camere. Vittorio, e cosa stai facendo? Ma Vittorio è caduto. Dimmi. Dimmi, la TV poco fa, un programma, e adesso... Ma te si gioca a casa perché non... ma poi sta piovendo un bel. E oggi è brutta la serata, troppa acqua. No, quando fa così non fa ucciso per poco. E tutti in fuggio, la becchi, vedi. E beh, e cosa fai? In giro non ci puoi andare. Adesso c'ho Maria. Domenica mi sono portato Maria. Cosa? Ehi, dimmi se te lo prende quella radio che già ce l'ha. Ma sta dicendo il marito che sta portando. Ehi, chiediglielo se ce l'ha ancora, se te la vende. E non peraltro, perché quando sono da altre parti vi sento io a voi. Ah? Quando sono da altre parti, quel portatile da ghiacciaggio mangio. Beh, con quello ci senti, sì. Invece chi su chi va giù e va a fare il quello è più sicurino. Vabbè, meglio di nulla, già funziona lo stesso. Già lo so, linea d'aria li devi misurarmi. Si misurano 10 chilometri, linea d'aria. Non è che li misuri in terra, no, si misurano linea aria. Dunque linea aria già ci arriva. A ciò che sei andato, è trovato neanche. Ne hai trovato. Adesso non lo so adesso. Sì, magari domani mattina se vai in truppe domani mattina prima devi andare a scuola. Vabbè. Stava facendo cosa adesso? Mi c'è stato un consiglio e ho dovuto portarli a me. Oh, grazie. Aspetta, sto mettendo a posto qua. Ah, grazie, ma se sempre fa vedere un viso oppure un portatile? No, il portatile più. Ma prima di lei ha usato un viso, perché con quello viso. No, vabbè, io ci vedo un portatile, perché quando c'è brutto tempo non si sente nulla. Anzi, quando c'è brutto tempo uso il portatile per i fulmini. Io quello portatile che ti sento bene, non ti sento bene. Male mi sì. Sto usando quello che avevo ieri, non l'hai visto? Quello... il GT3. Te lo stavo facendo vedere a un amico mio, e poi ti metto un amico mio, questo cavolo che è bello! Sto andando poco bene con R. Quello che voglio non vendere è anche quello che c'hai tu, tu usci. Ehi, quello c'è di Maria mi sembra che è uguale a questo qua. Però già me l'ho preso. Se entra glielo chiediamo, non l'ho sentito, no? C'è Maria, ci sei? Ehi, sono qua, mi sto ascoltando. Non c'hai quel portatile PMR che stavi vendendo 70 euro, hai detto? L'altra volta mi hai detto che stavi vendendo il PMR 70. Sì, se li interessa. Se li interessa, che frega, quei soldi glielo do. Ti ha detto la scatola, ancora imballata. Chiamali! lui, sentito là è Vittù, a Giomari. Aspetta che hai tappato a Vittù. Che ti stai dicendo, Giomari? Se te li sto chiedendo se ti ha sentito. L'hai copiato cosa ha detto Vittù, Giomari? Perché si è mancati, adesso se ti interessa, già ce l'hai ancora dentro la scatola. Quando l'ha comprato, c'ha scatola e tutto, non l'ha utilizzato niente. E già te lo vende, vai con i soldi e te lo vende. Se lo vuoi, gli dica lasciatelo, se non lo senti tu. Capito, Giomari? Se gli interessa, ce lo può fare. Se gli piace, se lo prende. Di subito. E ce l'ho posto, garantito dentro la scatola, nuovo nuovo. È stata messa la frequenza e buio e basta. Copiato hai, Vittù? Dunque, quando lo vuoi, glielo dici la sera che vai l'indomani mattina o l'indomani sera, gli dai soldi, 70 euro, così era Giomani. 75 era, dai. Se era 75. Vabbè, basti quello, fagli lo sconto a Vittorio, là. Che è nuovo, poi piccolino. Beh, sono cadato Vittorio. Vittorio è caduto, sì. È che già succiato. Di quello è succiato. Ora, cosa sei di Zendi? Io, Mario, ma tu ci sei su Istanbul? Ah? Ci sei su Istanbul? Capito l'uno. Ho detto se ci sei su Istanbul. Su Istanbul, ma ci sei, Giomari? Ollu! Giomari, hai capito? No, ho capito un tubo, ti ho detto certe volte. Oh, sono io che l'ho capito. Perché un mio che a momenti fa degli scherzi e non si capisce. Diglielo tu, grazie, Mari, a me non mi capisce, diglielo tu. E cosa gli devo dire? Anche lui su Istanbul. Ah, se iscritto su Istanbul nel telefono, mi. Sì o no? Giomari. Oh. Se è iscritto su Istanbul. Allora c'è scritto, già c'è scritto. Luca, già c'è scritto, ha detto. Copiato, Luca. Cosa? Se hai copiato, ha detto che già c'è scritto, ma chi ci viene finendo la pulla, la punta l'ha tutti tracciato, chi c'ha la pulla bianca o gialla? Non ho capito, no, grazie. Quello che sta pienando la bottiglia nella fontana col baccolo bianco, che è tutto tracciato, care. Quello è uno che vive così, io lo conosco anni, ma anni. Ma anche d'estate sta così, con quel giubbotto, quei pantaloni tutti rotti. Sta sempre così quell'uomo, però è pulito, non è a puzza, Se tu noti, vabbè, non si vede molto bene dalla foto, ma la barba ordinata, che ha pettinato bene, si vede che la faccia è un uomo pulito, ma veste così. C'è anche gli stivali in gomma e cuciti. Se viene in una ampulla leva e va a rubare col bianco, a chi c'è pure? Grazie. Capito, grazie. Ehi, dimmi. Ho detto che lui sta sempre così, non. Però è pulito, non è a puzza addosso, Mi sembra che già l'ho visto qualche volta. Eia. Sì, avevo già visto di diabete, il tipo 2. E il caffè sono buoni amici. Se amate il caffè vi farà piacere sapere che con una tazzina al giorno diminuisce il 7% probabilità di avere il diabete. Se le tazzine quotidiane sono 2 o 3, quelle possibilità possono diminuire fino al 50%. Per il caffè? Sì, mamma tua lo beve. Ho capito. Il caffè non lo sto più bevendo neanche, gli aggiungo una di. Vabbè, il latte lo bevo, vabbè, ma percentuale è proprio scarsa, forse sarà un 2% di caffè, 3%, fallo 10, ma... Guarda, dice anche, il caffè contro il cancro, una delle malattie più temute, e secondo alcuni studi, bene due tazze di caffè al giorno riduce la possibilità di sviluppare il cancro del fegato, della prostata e del seno fino al 40%. Ma attenzione, se siete fumatori sappiate che il tabacco elimina l'effetto del caffè. Considerate anche l'idea di smettere di fumare, aumenta il metabolismo bevendo il caffè. Ah, come si spera lui? Buchi, fa diave, fa il cimarannino. Poi dice, il caffè dopo i pasti, il corpo inizierà a processare il cibo più velocemente, questo perché il caffè aumenta il metabolismo dell'11%, lì c'è già l'usabilità. Un'altra malattia molto temuta è l'Alzheimer. Ebbene, gli studi condotti su questa malattia hanno collegato il consumo di caffè alla diminuzione del rischio di incontrarla. E io già me lo bevo il caffè, un mazzano dopo pranzo, la sera, vai, bu. Se mi fa anche due certe volte, la mattina io. Non tutti i giorni, però la maggior parte ne bevo due. Uno la mattina quando mi alzi, adesso a letto io me ne alzo, faccio colazione, dopo mi si dora con cani, dopo un'oretta o qualche cosa in più, mi bilancio, non tutti però, intendiamo, a giorni sfasati, là. No, io già me lo bevo ogni giorno, lo mazzano, quando me ne beso mi voto l'insulina, mi voto il caffè e mi biglio il caffè. E nel frattempo mi faccio il tè, due fette biscottate con il tè e sono gappù. Poi mi prendo tutte le pastiglie che devo prendere e basta, fino all'ora di mattina sto chiusa. E anche io faccio il zucchero di altero fino a mangiare. Poi magari se c'è gente il caffè lo riprendo la sera dopo pranzo, capito? Ma non sempre però, qualche volta quando c'è gente, se no non ne prendono la sera, però la mattina di solito uno o due lo prendo, prima ne prendevo anche tre o quattro, però dopo diminuito, bastano anche due, magari tre volte alla settimana o due volte, capito? No, io già me lo bisogna dire il caffè, uno la mattina, uno dopo pranzo, certe volte la mattina anche due, là. O l'altro me lo prendo a distanza verso le 11, una cosa del genere. E io lo ripeto, quando me ne alzo, la mattina faccio colazione. Dopo mi sembra una cocca, io mi alzo verso le 7:30, le 8. Faccio colazione e mi si goco. Dopo magari qualche volta finisco verso le 10, le 10 meno quarto, e anche le 10:30 qualche volta, non sempre. Massimo è uno due volte alla settimana, due, capito? Se no ne prendo uno solo, capito? Ah, io due già mi tu. E tu Luca? Luca lo prende molto spesso, vero Luca? Caffè no, ginseng ogni tanto, dai. Ma qualche volta ci addormentiamo, se c'è gente magari la sera dopo pranzo, io il caffè lo bevo per fare compagnia, no? Oppure ci vado fuori a mangiare e dopo non finito il caffè e qualche volta anche la massa caffè pure, ma quando andiamo fuori però. Io no, non lo posso bere per il problema che ho, perché siccome sono andato dal medico me l'ha sconsigliato per il momento a bere il caffè. Ma scaccia, certo nemmeno io lo potrei bere, Però certe volte lo bevo la mazza caffè, capito? Ma non sempre. Se siamo in compagnia, lo bevo gli altri, lo bevo anch'io. Ma in casa no. Così, io ho alcuni che raramente lo bevo, capito? Oh, quando c'è qualcuno lo assaggio anch'io. Come l'assaggio a casa, posso assaggiare anche fuori, quando si va a pranzo, capito? Lo so, io vabbè, quando fumavo nel 2007-2008, caffè lo prendevo, diciamo, spesso, dai. Era una cosa, cioè, caffè e sigaretta, dai, alla fine, ma poi ogni tanto dipende, dai, secondo cosa mangio lo prendo, ma adesso no un po', perché il medico me l'ha sconsigliato. Per esempio, tu mangiando cosa bevi? Coca-Cola, acqua o aranciata? Cosa bevi tu mangiando? Acqua, provvisoriamente acqua. Se capita un bicchiere di Coca-Cola, ma lo dipende, dai, molte volte ne ho voglia e mi bevo un mezzo bicchiere, dai, fallo un bicchiere. E se no, vi un bicchierotto di vino, ma sono andato e non bevo adesso. Quasi un mese, dai, più o meno. Luca! Sì, dimmi. Ah, arrivi rapidamente su da Bacchino, arriva la sera, mi pare. Via Grazia Deletta. 2000 spicciolini l'hanno pigliato, l'incaccio di la sera, verso le 8. Dice, gli ha puntato la pistola in faccia e ne le ha preso l'incaccio. Due settimane fa, dai, che in giornale non l'avevano messo ancora. Sì, 2150 euro, infatti quando sono passato io c'erano dei partiti di polizia. Ma quello lì è un casino, quel punto lì, a quell'ora verso le 9:15, 9:30 non c'è più nessuno. Lui ha preso per il braccio, quello là è riuscito a scappare, tutti contanti, Già c'era, già l'ho letto che ci ha provato, però vabbè, ma sempre un rischio è qui. Grazie, purtroppo, non lo so, sarà qualcuno che ne ha bisogno veramente, tutti ne abbiamo bisogno, non solo lui, però cosa vuoi ti dica, non lo so. Ci prova, il giorno che gli va male, questa non è roba mia, no? Stai adatto con queste carte. Le passate che non fosse arrivando, le passate che non fosse male a nessuno, capito? Se la darebbero, se si lo sono fatti sui, e prima o poi si muore lo zampino, si muore, a chi sento li può fare, ma se tu li sbaglia uno, Guardi, prima o poi lo beccano, tranquillo, prima o poi lo trovano e lui si paga tutto. Allora, il discorso è questo, magari lo faccio io un esempio, no? Magari se la fai tu che non l'ha mai fatto, ti paghi tutte quelle che hanno fatto. Cioè, ne hanno fatto 5 o 6, tutte le paghi. E quella è la fregatura. E faccio così. Ma io lo trovo, però vedrai che adesso comincio a indagare e già lo trovo. Capito? Cancelli il biglietto. 2150 euro, contanti. L'incasso della sera. Ma con l'avvocato invece e alle cucciate della Ciappari e vabbè, oddio che pratico qui sa fare il travaglio io per carità, vabbè va, se vogliamo questi cosi frequenti, va. C'è una rischiata, il figlio è poliziotto di volo del tabacchino, non qua a Sassari, mi sa dalle parti di Nuoro. Poliziotto, chi c'è, un Sassaro. Dalla Ciappa, Alessandra qui. Secondo come te, secondo la Ciappa, bisogna vedere che ci cazzo fai, Meglio esserci mai in mezzo a queste cose, cazzo, a chi non si sa mai un garage di farla, capito? Magari chi sa va, se è l'uomo, un bel poco, si sta di farla. Come se può, fai un bel discorso, Per carità. poi tanto niente di una. Oh, per carità. Riprendi, riprendi, grazie, riprendi. Luca, è quel video che ti ho mandato, quelli che stanno distruggendo la chiesa, l'hai visto? E paghi su, chi si, di rubiti fuori a ricappa, li risbarcata la nave, chi si è immigrati. Non l'hai visto nei paesi dove ci sono quelli, cosa fanno? Va per carità, lasciamo perdere, va. Dai, mi assento, rimango in ascolto. Ehi, vabbè, ma te ne do caffè di noi, se mi grazie. Ah, l'hai mandato un video a Luca Giommari, di una chiesa l'hanno tutta distrutta, tutti armati, lo crocefisso, l'islante, i madoni, tutto da bene, tutto. Adesso te lo mando su WhatsApp, mi pare che esce a venire. Aspetta, guardo. È il numero 3 in un viaggio, no, grazie. No, su Messenger, esce a venire. Allora. Cioè, Maria, Messenger già ce l'hai già. Messenger, ce l'hai. Scusa, tu... Aspetta un messenger, ci avessi visito, ci avessi visito, le mangi, aspetta, sto guardando. Graziano, arrivo ora. No, non ci sei tu su messenger, tu c'hai solo WhatsApp, c'hai, Giovanni. Io lo so, quello già lo posso usare, magari ci sarà anche, ma non so come, capito? È come WhatsApp, è quel segno blu, una N, quello è Messenger, però io non ti ho neanche qua scritto, sto guardando se ci sei qua, no? Su Messenger, nella lista dei numeri. Sto guardando, lui non c'è. No, non c'è, solo su WhatsApp, però su WhatsApp non lo so se fa. Aspetta che provo, faccio una prova se fa su WhatsApp. Copia il link e glielo mandi su WhatsApp, lui lo apre e se lo guarda. E come faccio? Sto guardando come si fa, esce a venire. Allora, fammi vedere se fa. No, io so tu vai, sto guardando se c'è il nome qui, forse fa. Si riesce giù, se ce l'hai tu. Io non ce l'ho, dove l'hai messo? Guarda, me l'ha messo, grazie, su un messaggio. Glielo mando su WhatsApp. Ah, aspetta che te lo mando. Guarda che te l'ho mandato, arrivato. Dopo lo guardo, glielo mando, dai, dammi tempo, mi sono posto la barba. Su Messenger mi te l'ho mandato. Capito, aspetta. Non è arrivato niente? Non ci sta su Messenger. Dammi su Messenger, su Facebook. Senti quest'acqua. Grazie, mandalo anche a me. Il pistone in faccia al tabaccaio, bottino di 2000 euro. Ehi, vicino a casa mia è successo. Cosa? A cosa sto dicendo? A Vittorio, che è successo vicino a casa mia. Che non che grazie a me qui, ti faccia il pistone in faccia al tabaccaio, bottino di 2000 euro. Ehi, gli hanno rubato i soldi, dici. Proprio, c'hai niente proprio. Senti, non mi è arrivato nulla, mandalo nuovamente. No, c'hai niente fuori di gabba, che non sa ne cosa va. Ladri, invece di andare a ti cazzo un travaglio, andano a pure la cazzo dei studenti, che di là, cazzo dei tuoi compagni. Tu vado in una macchina, ti trova là. Arriva un pacco e mi ripura in casa, ti piace. a me non me l'aveva fatta, che prima di dare di lei tu l'aveva scritturato fucilato da capo. Eh beh, questo è una cagosa, tranquillo. Solo credo che sarà la rimossa, cazzo. Immagini. Ehi, senza venire un negozio, e lo stato già procurato pittura in panza. Lo primo che era entrato mi aveva fatto qualche profonda del genere, l'aveva fatto subito secco. E altro che chi di là l'aveva dato. Allora, la pistola era già appunto direttamente di terrorismo. E da poi se l'ha stato armato, aveva pigliato la pistola gioia, con la mano gioia l'aveva sparato. E ha sparato prima lui e io mi sono difeso. Assai. Secondo me è un buon controllo, perché mi sono un altro. Ehi, mio cucci, a chi lo posso dire, ha parato per tutto lui e io mi sono son difeso. Ora mi devo far ammazzare, ma fammi dire che mi ero difeso. Dunque, lui ha sparato, non mi ha dato, l'ho sparato io e l'ho preso. E beh, e allora cosa vuol dire? Ma cosa sta usando? Trattate l'altro, grazie. Sei già vicino a uno. Che intendi, scusami. Tu da uno. No, il portatile. Così. Il portatile sto usando. Ciao, man. Lo sento io, che ce l'ho con Gommino. Quando parli tu, perché lui sta usando il Gommino ed è nell'altra camionetta dietro e non ci arriva lì. Io non l'ho perso neanche, io sono che non sta neanche parlando. E perché non lo senti neanche tu? Mi sembra che c'è mia cugina con quegli apparecchiature che ci avete voi, mi sembra ma regala lei uno. Che ne ha due e non se ne fa niente. Cioè che gliel'hanno regalata a Natale, ha detto, oh regala, ma voglio così almeno sono in contatto con questi senza avere di più del gasso. Se tu non ti dà fucino, più da mille bacca. Se te lo regala fatelo dare. Ma tu dici che non li sta usando, tanto gliel'ha regalata a Natale. E fateli regalare, se non li usa. Sono come i vostri, quelli che si illuminano anche. Professionali, 200 bimbi, che per pagata alzata li pigliani vici. E fateli regalare, non li usa, se non puoi fermi, se non li adopera, ci guastano. Poi appena me li faccio regalare, vabbè, andiamo in questura, vostro tutto, grazie. E beh, ti devi mettere in regola, cioè, no, tu a te non te ne fanno, perché c'hai 14 anni, ma poi tu te lo deve fare, e tu ancora sei troppo piccolo e non te ne danno, e da 16 anni, a 16 anni ci penso, così è Giomari, la licenza a 16 anni vi dà buonità. La licenza, il permesso, a 16 anni glielo possono dare, così è, a fare la domanda. Glielo fa, siamo in non lo so fare, e così che ci mette a lui, come lo ha capito. Let's just say something. figlio se si comporta bene. Se si comporta male, se si piangerà il padre, capito? E infatti gliel'ho detto io, la deve fare la domanda a nome del padre. Poi il padre ci mette anche a lui, capito? Capito, hai visto? La deve fare a nome di babbo tuo la domanda. E poi ce lo ci mette pure a te, lo puoi adoperare anche tu, capito? Il numero telefonico già ci penso io, gli do il mio. Eia! Ma la licenza, il permesso, la deve richiedere babbo tuo nel permesso, capito? Poi ci deve mettere gli operatori che gli adoperano, il nome di babbo tuo e il nome tuo, e lo puoi usare anche tu, capito? Però la licenza la rilasciano al nome di babbo tuo, capito? Mi Vittorio, adesso Gian Maria, se vuoi il modulo da compilare e spedirlo a Cagliari con il versamento da 12 euro, te lo dà Gian Maria, ce l'ha lui il modulo per la domanda. Ehi, quando vuoi me lo dici, vai da Gian Maria e ti dà il modulo, così lo compili e lo spedisci. E fai il versamento di 12 euro e ci metti la fotocopia del bollettino pagato all'interno del foglio della domanda che spedisci, capito? Ehi, poi ti faccio sapere quando tu posso usare su Meta, che ti posso vedere la fotografia che mi ha regalato mi cugina direttamente, fa ricordo PMR, chi su chi fai tu, e da poi posso mi subito tu fa. Ehi, ma il foglio per compilarlo già ce l'ha Gian Maria, te lo dà lui, capito? Così non ci vai lì alle poste centrali a richiedere il modulo, capito? Ce l'ha Gian Maria, te lo dà Gian Maria, tu lo compili o te lo fa vedere Gian Maria o te lo dico io com'è e come lo devi compilare e poi lo spedisci, capito? Ehi, mi dici quando fai da Gian Maria, così te lo dà. Ehi, a Gian Maria adesso già me lo fa sapere quando viene a darglielo il modulo, così lo compila e lo spedisce con la fotocopia del bollettino del versamento di 12 euro. Ehi, ma sta dimmi, quando viene io se lo compilo ed è a posto. Sta regalando mio cugino, la veloce, capito? Così almeno sono assicurato. Ehi, aspetta Vittorio, stava parlando Gian Maria. PMR che gli hanno regalato a Natale, non ne ha mai adoperato. E gli ha detto che glieli regala, Gian Maria. E quando se li regala, ti adoperi quelli che sono come quelli che ha visto il mio di Gian Maria, ti adoperi quello, se non è così, se è un giocato, si vedi, no? Quando se li dà mi mandi la foto, capito? E se non è come quello che c'ho io e Gian Maria, poi là ti compri quello di Gian Maria. Ehi, taglia, ti posso già mettere che ti invio la foto. No, comunque, quando te lo dà, mi mandi la foto. Direttamente, se parlo con Gian Maria. Ehi, se non lo fai vedere anche a Gian Maria, quando vai con il foglio ti porti la radio e gliela fai vedere. Che già lo sa anche lui. Capito, mi hai? La faccio quando me la regala, gliela faccio vedere a Gian Maria. Ehi, ma Luca sta tutto dal letto. Immaginato Luca. Ti c'era fame. Azzitta. Però lo finirai. No, c'è già il rumore della bavoletta con lo stendino della roba. Oh, eh? E beh, a chi l'aveva lavata nell'lavatrice adesso la mette, nello stendino la mette lì. E lì adesso così, dati per la stufa, già tutta. Allora, Greco, asciuttatore, lo fai buonissimo a te. Cazzo, in mezzo all'asciutta sta la roba, cazzo. Le stelle tutte asciutta. Il suo calore che fai, già lo Greco, asciutta. Era buon esempio, intanto dura, non fa da attendere, è più bene. Forse domani va a sole. Vabbè, ma è da dire, vanno rimanere senza la lavatrice la bombina, e poi la io. Ehi, ehi. Per carità. E prendi vento, papà. Fino a poco sono diluviato, però non vedeva, Aspetta che mi ha chiamato mia figlia al telefono, Giommaro. Ma è migliore, la figlia che dice non risponde al telefono. Sì, che te ti intendi? Va bene, che razzo. 7:30 adesso chiudo. Vittorio, a domani, ciao, se ci sei ancora. Gian Maria, ci sentiamo domani, ciao a Luca anche, buona cena, buon tutto a tutti. A risentirci a domani, ciao ciao. Ciao, ciao. Ehi, ciao ciao. Gian Maria. Dimmi grazie che sono ritornato per te cara. Ehi, chiudo là, ci sentiamo domani, ciao. Ehi, d'accordo, grazie, ci sentiamo, dai, buon proseguimento, ciao, chiudo. Ciao, ciao, domani.